Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un benvenuto da Maurizio Melis. Il patto dei sindaci, questo è il tema di stasera, penultima puntata di Mr. Kilowatt. Di cosa si tratta? Si tratta di una iniziativa che nasce in Europa con lo scopo di coinvolgere direttamente gli enti locali nella attuazione di politiche di risparmio energetico e di diffusione delle rinnovabili. Ne parliamo con Tito Cattaneo, presidente di E2SCO, una società di servizi energetici mista pubblico-privata che funge da struttura di supporto per 23 comuni che hanno aderito all'iniziativa. Buonasera Cattaneo. Buonasera a voi. Allora, iniziamo intanto direi a fare il punto su quelli che sono gli elementi principali di questo patto dei sindaci. Ci sono due fondi. Sì, allora, l'attuazione di questo patto avviene attraverso due fasi. La prima, che è quella della progettazione di quelli che sono tutte le azioni, gli interventi che i comuni che hanno aderito a questo patto morale, diciamo, con la Commissione Ambiente e Energia della Comunità Europea, si impegnano appunto a sviluppare questi piani d'azione. Questi piani d'azione hanno una fase che deve durare 12 mesi dalla sottoscrizione del patto. Questa fase di programmazione degli interventi praticamente? Sì, è il fare un attimo la fotografia del momento e quindi andare a stabilire quanta CO2 si immette in atmosfera in quel momento e predisporre tutti i piani di azione per ottenere almeno la riduzione del 20% di emissioni utilizzando il 20% di fondi di energia assorbita prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020. Quindi è proprio una riproposizione in piccolo degli obiettivi 20-20-20 che ogni singolo ente locale si impegna a raggiungere individualmente. Esattamente. D'accordo. C'è questa prima fase nella quale bisogna presentare progetti, tra l'altro mi pare di aver capito vengono accettati solo progetti piuttosto corposi. Sì, c'è proprio per una esigenza di struttura della BEI, che è la Banca Europea di Investimento, che è colei che finanzierà, che eroga i fondi. Questi fondi preferisce avere interventi che siano accorpati con richieste economiche che superino i determinati valori. Si parla come minimo di taglie da 25 milioni di euro in su, meglio se attorno ai 50. Questa è la prima fase, se non sbaglio viene finanziata a fondo perduto al 90% questa fase di analisi, giusto? Sì, c'è un bando che si chiama Elena, che va a sostenere tutte le iniziative che i comuni mettono in campo per la fase di analisi e di progettazione. Perfetto. Quindi è la parte di preparazione a poi le azioni effettive. Ecco, a questo punto si arriva alla seconda fase. Qui che cosa succede? Quali sono i benefici? A questo punto la BEI analizza attraverso una particolare commissione tecnica questi progetti, verifica che ottemperino al certo raggiungimento dell'obiettivo e finanzia con un tasso veramente agevolato, con durata che può arrivare fino a 20 anni, la realizzazione certo degli impianti. Ecco, questo tasso è? Attualmente è il tasso di sconto europeo meno il 15%. Qualche settimana fa si parlava di uno 0,85 di tasso. D'accordo. Dunque, per accedere appunto a questo programma è però necessario mettere in piedi una struttura di supporto. Voi siete esattamente, rispetto a questi 23 comuni citati all'inizio, la struttura di supporto. Ecco, qual è il modello che avete scelto? Che cosa siete voi? Perché voi siete una ESCO pubblica privata. Certo, noi siamo una ESCO, quindi una Energy Service Company, che nasce proprio con l'obiettivo di aggregare un certo numero di comuni, quindi di pubbliche amministrazioni, che hanno scelto attraverso un bando ad evidenza pubblica, quindi una gara a tutti gli effetti, alcuni soci privati che servono come braccio operativo dell'ente pubblico per realizzare realizzare tutta una serie di iniziative legate all'ambiente e all'energia. Qual è il vantaggio di utilizzare una struttura come voi? Perché questi comuni non potrebbero fare da soli, per esempio, questo lavoro? Il vantaggio principale è che queste società agiscono con un metodo operativo di finanziamento tramite terzi, quindi non per i comuni non comporta l'investimento diretto delle opere, ma solo il mettere a disposizione le proprie strutture, le proprie proprietà immobiliari su cui vengono fatti gli interventi di efficienza energetica e di fonti rinnovabili. E certo, siccome l'Europa consente l'accesso a questo tasso agevolato, immagino che le banche siano abbastanza favorevoli a erogare finanziamenti, ma le chiedo un'altra cosa: si riesce in questo modo a superare lo scoglio del patto di stabilità? Certo, perché di fatto le azioni e le attività svolte dalle ESCO, ma in particolare quelle che rientrano nel patto dei sindaci, per legge europea non rientrano nei parametri del patto di stabilità. Grazie Cattaneo. A lei. Bene, domani ultima puntata di Mr. Kilowatt, avremo ospite il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Stefano Saglia, con delega all'energia, al quale chiederemo di fare il punto sui prossimi passi del governo nel settore del risparmio energetico e delle rinnovabili. Buona serata a tutti.